Data Brecht, meaça, matai la su. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sono in tavola gli spaghetti col tonno? No, ma non ti ricordi che giorno è oggi? No! No! Sera. Buonasera. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Cara Debora, buongiorno. Come stai? Buongiorno. Guarda, sei sento felice? Persino la mancanza, sì, sento persino la mancanza dell'assemblea di condominio in questo periodo di dissociazione generale e distanziamento sociale e fisico, soprattutto perché poi va definito fisico, no, per la correttezza. Perché abbiamo cominciato con l'assemblea di condominio? Sei stato convocato? No, perché devi sapere che sul Sole 24 Ore di oggi, a pagina 31, informiamo che si possono fare le assemblee di condominio anche di persona se si mantengono le distanze di sicurezza, quelle di cui tu ma parlavi poc'anzi. Ma allora stiamo davvero tornando alla normalità? Esatto, potremmo tornare a litigare in assemblea di condominio, però mi raccomando da distante, e specialmente se si alza la voce, perché poi lì il droplet, questa cosa qui, insomma, del passaggio di questo aerosol. Le goccioline infette. Esatto. Bisogna stare a distanza, ma si può fare anche l'assemblea da remoto. Sai che cosa è successo? È successo che rispondendo a una serie di richieste che erano state proprio poste dal Sole 24 Ore, e qui devo dire il collega Saverio Fossati è sempre molto attento, curando anche il nostro quotidiano del condominio su internet. Certo. E il governo ha aggiornato, ha completato una risposta che sta nelle FOC, nelle domande frequenti e risposte frequenti del sito governo.it, cioè il governo, quello proprio nelle risposte ai chiarimenti per il coronavirus, e ha detto che le assemblee di qualunque tipo, virgola, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione, possono svolgersi in presenza fisica, purché naturalmente rispettino le distanze di sicurezza. Inoltre, resta ferma, cara Debora, la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni. Adesso ci sono un po' di perplessità, ma le segnala appunto il Sole 24 Ore oggi a pagina 31, per capire, sì, ma chi poi si assicura che tutti, come dire, abbiano i guanti o stiano a distanza, insomma, sarà il compito dell'amministratore, chi dovrà farlo. Bisognerà usare anche qui una robusta dose di buon senso. Però la notizia è possiamo tornare a fare assemblee di condominio. Non so quanti saranno contenti, vedremo. Ma quale sarà l'esito. Soprattutto io mi fermerei alla prima parte del tuo quesito, non so quanti saranno, perché dai, adesso parliamoci chiaro, non è che l'assemblea di condominio, lo sappiamo, si vada sempre particolarmente volentieri, e quindi in genere ci sono proprio gli irriducibili dell'assemblea. Anche per gli stabili più abitati, in genere la partecipazione all'assemblea è sempre molto limitata fisicamente e ampiamente delegata ai colleghi del pianerottolo. E peraltro, Mauro, quello che mi aveva incuriosito in queste settimane di lockdown in cui tutti siamo stati in casa era stato l'affollarsi di spot pubblicitari che reclamizzano proprio l'utilizzo di queste piattaforme per poter fare l'assemblea di condominio anche a distanza, per cui in realtà si è molto emancipato anche questo mondo nell'organizzazione dell'assemblea. Chissà, insomma, se qualcuna è stata fatta con questa nuova modalità, mi piacerebbe saperlo dagli ascoltatori, magari li invitiamo a raccontarcelo, così li invito solamente a mandarci un messaggio, perché poi il nostro tema di oggi è un altro, ma se avete fatto l'assemblea o partecipato ad un'assemblea di condominio con una di queste nuove piattaforme online, raccontatecelo, perché insomma anche questo è un mondo che necessariamente si è dovuto evolvere causa Covid. Mauro. Insomma, una assemblea call, non una conference call, una condominio esatto. call, ecco, potremmo chiamarla. Oggi invece però esatto. parliamo di tutt'altro, perché parliamo della possibilità di emersione, di sanatoria, di regolarizzazione, chiamatela come volete, dei lavoratori stranieri, che è stata prevista nel decreto legge 34, alias il decreto rilancio. È una possibilità di regolarizzazione che riguarda sia i lavoratori in agricoltura, come sappiamo, sia anche i lavoratori domestici. E allora ne parleremo diffusamente con degli esperti ovviamente di valore mondiale, come è nostro standard abituale qui a Due di Denari. Vi invitiamo a prenotarvi per le vostre domande, a inviare le vostre domande, i vostri quesiti ai seguenti numeri: 800240024 se volete intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Prima di tutto questo però, Deborah, se non mi sbaglio, perché vedo Peter Bescapè di là dal vetro, devo dire oggi fresco di barbiere, oggi pettinatissimo. Sarà più bello del solito, santo cielo, non saprei, è un peccato non essere là. Purtroppo guarda, la trasmissione su Facebook e su YouTube va in onda riprendendo me e non lui. E così le ascoltatrici devono purtroppo adattarsi a questo crudele destino. Di là dal vetro naturalmente c'è anche il solerte Luca Cremonese, sempre presente, e poi abbiamo la guida sapiente da remoto di Marco Lombardo. Allora, dicevo, lui è già pronto per lanciare il giornale radio del risparmio, se tu sei d'accordo. Noi siamo pronti a leggerlo, perché no? Via! E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Mauro, non abbiamo ricordato che noi oggi ci occupiamo della regolarizzazione dei lavoratori stranieri sul nostro territorio, perché abbiamo scelto di approfondire questo argomento essendo una tematica di lavoro, essendo oggi mercoledì abbiamo pensato appunto di approfondire questo argomento come tema di lavoro, e quindi anche il nostro giornale radio del risparmio mediamente in questa giornata è abbastanza sbilanciato verso questo settore. Ti do l'indagine Istat che è stata diffusa questa mattina. Sì. Mi pare che nel giornale radio non abbiano data la notizia, se non mi è sfuggito il giornale radio appunto di Katia Caramelli, ma il punto è che ci sono delle microscopiche buone notizie, e anche dai dati di aprile si intravede la ripresa delle attività economico-produttive. I dati sono ancora molto pesanti, ma qualche microscopico segnale di miglioramento e di recupero lo abbiamo. Abbiamo intanto ad aprile, mese del lockdown abbastanza pieno, 274.000 occupati in meno rispetto a marzo, e quindi c'è una marcata diminuzione. Il tasso di disoccupazione è però sceso al 6,3% dall'8% di marzo. Si tratta del minimo dal novembre del 2007. Pesa appunto l'effetto del lockdown. Il numero dei disoccupati a caccia di impiego scende a 1.543.000. Dati ancora estremamente importanti, direi sfiorano il dramma, però ripeto, su marzo un piccolo segno di miglioramento. Adesso speriamo nella statistica di maggio di vedere un ulteriore miglioramento rispetto ad aprile. C'è però una risalita dei cosiddetti inattivi, hai visto? Sì, che sono coloro che sostanzialmente non hanno lavoro, ma quello che preoccupa è neppure lo cercano, sono scoraggiati, insomma, non ritengono di poter trovare un lavoro, vuoi per le loro condizioni, vuoi per le loro specializzazioni. Ad esempio chi lavora nella ristorazione in questo momento è ovviamente in difficoltà, oppure chi lavora nello spettacolo, stiamo aspettando ancora di poter fare una riapertura, ancorché condizionata per ad esempio le attività culturali all'aperto. Sì, questi sono saliti di 746.000 unità. Come dicevi, si vedono dei piccoli segnali, ma è un po' come abbiamo commentato in questi giorni: la produzione industriale, un pesante calo che è un po' meno del calo di marzo, però insomma sempre calo è, e quindi speriamo di rivedere presto una tendenza positiva. Ti voglio dire una cosa favorevole, diciamo, per controbilanciare: lo smart working nella pubblica amministrazione. Secondo una ricerca che è stata condotta da FPA e presentata al forum PA, il 94% dei lavoratori della pubblica amministrazione vorrebbe continuare a lavorare da casa con rientri in ufficio non quotidiani, perché ha trovato l'esperienza di questo smart working, ma forse dovremmo dire telelavoro, come sai, perché è stato uno smart working un pochino condizionato, ecco, ha trovato che questa esperienza sia stata positiva. E allora in questi anni uno degli ostacoli per lo smart working nella pubblica amministrazione è stata l'inadeguatezza delle dotazioni tecnologiche, ma qui, come è successo, devo dire, nelle aziende pubbliche e anche in quelle private, la soluzione è venuta poi dalle persone, perché secondo questo quanto risulta, nel pubblico il 68,2% del personale ha utilizzato un proprio personal computer, il 77% un proprio telefono cellulare e il 95% la propria connessione internet domestica. Insomma, esatto, ci siamo trovati a fare lo smart working a mezzi propri sostanzialmente, però, però l'esperienza, per dice la ricerca, che li avevamo, è positiva. Esatto, infatti, anche perché tu sai che per esempio la questione della didattica distanza nella scuola ha trovato un ampio aspetto di polemica proprio in questo, che molti bambini non erano nelle condizioni tecnologiche di seguire corsi a distanza, per cui è importante effettivamente dotarsi anche in via autonoma di queste disponibilità tecnologiche. Senti, allora, non solo dal punto di vista numerico, ma lo abbiamo capito, soprattutto dal punto di vista qualitativo, il mondo del lavoro sta cambiando con una accelerazione improvvisa a causa del Covid-19. Allora io direi di fare una bella riflessione, Mauro. Sì. Martedì prossimo vorrei invitarti e io per l'occasione tornerò martedì pomeriggio nel Palazzo del Sole 24 Ore per condurre con te il Welfare and HR Summit, un formato digital event, per la verità. Noi saremo lì fisicamente, ma avremo tutta una serie di ospiti collegati con noi grazie appunto a tutte le piattaforme che stiamo largamente utilizzando in questo periodo, proprio per approfondire tutte le novità del mercato del lavoro, con gli impatti anche nell'attività della gestione del personale in azienda. Faremo un punto della situazione sentendo anche alcune testimonianze di alcune aziende italiane che stanno riorganizzandosi appunto in questa ripartenza, ma soprattutto ci faremo raccontare come hanno gestito queste settimane. Qualcuna aveva sicuramente le spalle sufficientemente larghe per farlo, altre si sono trovate più in difficoltà, tutte adesso stanno ripartendo, quindi avremo una prima parte di scenario generale, una seconda parte che sarà quella coordinata dalla collega Maria Carla De Cesari delle Sole 24 Ore, caporedattore di Norme e Tributi, non faccio la gaffa dell'altra volta che non me lo ricordavo, che coordinerà invece il dibattito fra tutta una serie di giuslavoristi. Sì. Che affronteranno anche l'aspetto della legislazione, no? Come sta cambiando anche la luce della riorganizzazione, se vuoi, delle relazioni industriali in questa fase. E quindi possiamo invitare anche i nostri amici che ci seguono a seguirci se vanno sul sito costituito per l'occasione. Sì, esatto. E allora ricordo la data: martedì 9 giugno alle 15, alle ore 15 ci sarà questo convegno digitale, insomma un convegno a distanza. Dovete andare su eventi.ilsole24ore.com e poi /welfare-hr-summit. Però se andate già su eventi.ilsole24ore.com, cercate in data 9 giugno e trovate le modalità per partecipare a questo evento, a questo convegno digitale del Sole 24 Ore. Adesso io va bene, adesso facciamo la trasmissione, però poi vorrei essere lasciato tranquillo per leggere la pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi. Perché? Cosa c'è di tanto interessante e avvincente? Perché è stata fatta un po' un riassunto, un censimento degli aiuti, gli aiuti da coronavirus per i lavoratori autonomi della gestione separata, artigiani e commercianti, professionisti. Insomma, una pagina da collezione, come dico talvolta, perché i colleghi Matteo Prioschi, Federica Micardi, spero di non scordare nessuno, hanno radunato tutte le misure. Perché devi sapere, cara Deborah, che per alcuni mesi sono state erogate le indennità in un modo, ma per altri mesi vengono erogate in altro modo. Quindi esatto, non è semplicissimo orientarsi. Non vorrevo rubare tempo alla questione della sanatoria, della regolarizzazione dei lavoratori immigrati, ma invito tutti veramente a leggere, a tutti gli interessati, a leggere questa pagina 8 oggi sul Sole 24 Ore. Esatto. Tra l'altro la organizzazione piuttosto discutibile dell'erogazione di tutte queste indennità, come tu sai, ha anche lasciato scontenta la platea dei professionisti. Li hai citati prima, anticipando appunto il contenuto di questo articolo del Sole 24 Ore, professionisti che sono un po' in disappunto per l'esclusione dei contributi a fondo perduto che il governo ha erogato per tutta una serie di categorie, poi l'impossibilità di ottenere il bonus da 600 a 1000 euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto a marzo. Insomma, tutta una serie di punti che portano domani questo ordine del giorno negli Stati Generali delle Professioni Italiane, che è appunto è previsto per domani, organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche, e domani appunto si discuterà di tutto questo con una sorta anche di manifestazione blackout, come l'hanno definito i professionisti, che domani si radunano appunto e c'è anche questa possibilità di seguire i lavori di questi Stati Generali online domani mattina dalle 10.30 alle 12.30. Quindi professionisti che noi seguiamo sempre volentieri nei nostri contenitori, nelle nostre trasmissioni, e di cui segnaliamo volentieri anche questa manifestazione di domani. Ottimo, abbiamo detto tutto? Penso proprio di sì. Dobbiamo ancora ascoltare un messaggio per dirlo a Due di Denari. Dico in anticipo che dell'argomento segnalato dall'ascoltatore ci occuperemo venerdì. perciò venerdì. Ottimo. Non dico niente, così lascio anche un po' di suspense e poi rientriamo parlando sono tutta del, un brivido con la nostra abituale sigla del mercoledì dove è il nuovo lavoro, ma dopo il dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno, in realtà avere la SPID non è una procedura lunga, è una procedura complessa che non so quante persone ultra cinquantenni siano in grado di fare. Io l'ho fatta la settimana scorsa, due settimane fa, vabbè non è importante, sono andato in posta, mi hanno inserito i dati, mi hanno mandato una mail, mi hanno mandato degli sms con dei codici da inserire, l'ho fatta senza problemi, ho iniziato il venerdì mattina andando in posta, il venerdì pomeriggio ce l'avevo e al sabato mattina a mezzanotte, cioè la notte tra venerdì e sabato, ho fatto la domanda alla regione Piemonte per avere il finanziamento dei 2000 euro, il rimborso dei 2000 euro e me li hanno dati lunedì, quindi tutto a posto. Dov'è il nuovo lavoro? Scusa Mauro, però una cosa vorrei dirla sul messaggio dell'ascoltatore, molto utile, molto incoraggiante per chi deve fare la SPID. Ha parlato, attenzione, che non so se gli ultra cinquantenni riusciranno a farla, quindi da quello che capisco io non riuscirò a farla. Cosa vorresti dire? Guarda che ci sono anch'io in mezzo a questa guado. Tu non fai testo, tu sei giovane dentro, sì, in certo, ogni caso. Come no. Ecco. Vabbè, comunque la voglio fare. Va bene, guarda, non me la voglio prendere per questa cosa, sono già abbastanza impermalito. Allora, niente, passiamo a presentare i nostri esperti in ordine alfabetico per cognome, ma anche in ordine di doverosa galanteria. Diamo il benvenuto a Franca De Ponti, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno, Franca. Buongiorno a tutti. E all'avvocato Marco Noci, che è un esperto di immigrazione, firma abituale anche lui del Sole 24 Ore. Buongiorno, avvocato Noci. Buongiorno, grazie. Allora, Debora, vuoi cominciare con la prima domanda che ti interessa sapere? Sì. Perché qui abbiamo due categorie. Braccianti agricoli, sì, esatto. Lavoratori domestici. Esattamente, infatti diciamo che per come era passata un po' la famosa conferenza anche del ministro Bellanova che ricordava la sua esperienza del passato, sembrava, e anche date le necessità del mondo agricolo che in questo periodo non si è potuto impiegare con serenità nella raccolta di tutti i vari prodotti, sembrava che effettivamente questa regolarizzazione fosse destinata solo ed esclusivamente a reperire manodopera per i campi e invece Mauro intanto non è così, sgombriamo immediatamente il campo da questo grande pregiudizio. Ma guarda, tra l'altro Franca ha coordinato e scritto anche due preziose pagine che sono uscite non lunedì l'altrieri ma la settimana precedente e quindi lei è la voce migliore che puoi ascoltare sul tema. Franca. Diciamo che intanto l'elaborazione in realtà l'hanno fatta la collega Valentina Melis e Michela Finizio. Ma tu, abbiamo fatto delle elaborazioni. Sarai stata l'eminenza grigia. No, ma che l'eminenza grigia. No, allora qui il discorso vero è che dunque noi abbiamo stimato, ma stiamo parlando di irregolari di lavoro, da non confondere necessariamente con gli irregolari di permesso di soggiorno, che la platea potenziale di questa sanatoria è di una mezza milionata di persone, intese come cittadini extracomunitari, perché gli irregolari di lavoro fra colf e braccianti, tanto per capirci, sempre stimati in base all'Istat, sono 1.100.000 persone. Di questi, diciamo, più o meno la metà sono irregolari di lavoro che sono cittadini extracomunitari. Non è detto che questi cittadini extracomunitari siano tutti senza permesso di soggiorno, anche se la gran parte evidentemente di questa platea qui potenziale sarà anche senza permesso di soggiorno, come spiegherà poi, le conseguenze le spiegherà poi Marco Noci, che è lui il vero esperto. Di questi qui le stime sono che 444.000 circa sono in realtà adibiti al lavoro domestico e solo 40.000 impiegati in modo irregolare in agricoltura. Va detta una cosa, che purtroppo mentre il lavoro domestico, anche le posizioni in nero, diciamo così, o irregolari, sono più facili da censire. Quelle dell'agricoltura, specialmente in certe zone d'Italia che sono preda delle agromafie, sono anche per l'Istat sono impossibili da censire veramente. Tanto è vero che ci sono dei dossier sulle agromafie che parlano addirittura di 200.000-300.000-400.000 persone. Quindi questo è il mondo su cui si va a incidere, ma di sicuro una grossa parte sono anche persone che vanno in aiuto alle famiglie, quindi non solo i braccianti. Allora, avvocato Noci, Franca De Ponti l'ha chiamata subito in causa. Come funziona questo? Quali sono i tratti comuni per questo tipo di regolarizzazione? Ma come diceva Franca, ci sono due strade. La prima riguarda i cittadini italiani comunitari, dove il datore di lavoro deve far emergere un rapporto di lavoro già esistente e la procedura va fatta direttamente all'INPS. Il secondo canale riguarda i lavoratori extracomunitari, dove il datore di lavoro può assumere direttamente uno straniero o far emergere un rapporto di lavoro irregolare già in essere. E infine la sanatoria autorizza gli stessi cittadini stranieri che hanno in precedenza avuto un permesso di soggiorno scaduto il 31 ottobre 2019 e non rinnovato, di chiedere un permesso di soggiorno cartaceo temporaneo alla questura, dimostrando che hanno lavorato nel settore dell'agricoltura o nel settore del lavoro domestico e producendo documentazione di data certa che attesta la sussistenza di questo lavoro. Ecco, a confermare quanto ci ha detto Franca e ci ha ricordato adesso l'avvocato Noci, cara Deborah, stanno già affollandosi tantissime domande proprio sulla questione della regolarizzazione delle badanti. Ad esempio, telegraficamente scrive un ascoltatore: badante di mia mamma in Italia dallo scorso anno, la cui presenza sul territorio non risulta da alcun documento. È una situazione sanabile, avvocato Noci? Ma la norma prevede che deve essere data certa. La norma della prova della presenza dell'8 marzo fondamentalmente è copiativa della sanatoria del 2012, sì. dove doveva essere dimostrato come la presenza in Italia dello straniero a una certa data. E qui può essere il timbro sul passaporto, può essere un referto medico, può essere una scheda del telefono. Quindi un qualsiasi utilizzo qualsiasi magari di documento, la norma prevede provenienti da organismi pubblici, e ma non solo questo qua, cioè ci sono tanti documenti che possono dimostrare la presenza in Italia dello straniero alla data dell'8 marzo, che è la data chiave. Esatto. Allora vi fermo un istante perché è il momento di ascoltare come stanno andando i mercati finanziari, cioè, cara Deborah, tocca a te. Le borse. Sì. Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Buongiorno, io ho 73 anni. Ho fatto tutto online, ho lo speed. Buongiorno, sono Marina. Vorrei dire all'ascoltatore che mi ha preceduto per quanto riguarda gli ultra cinquantenni, ma cosa vuol dire? Ma dipende che lavoro fai, sei avvezzo computer e tutto quanto, è una banalità. Se invece fai dell'altro, magari la cosa diventa più complicata, non c'entra l'età. Cara Deborah, vedi che alcune mie coetanee si sono, sono abbastanza impermalite. Poi io devo dire, ad esempio, mia suocera, che diciamo non è più una bambina, anche se è sempre giovanissima in spirito, è molto pratica con i computer, quindi non avrebbe nessuna difficoltà a fare la speed, forse non c'ha voglia di farla, per dire, ma magari invece la farà presto proprio per queste misure. Non credo che serva la speed invece per questa sanatoria, per questa regolarizzazione di colf e braccianti, però chiedo conferma a Franca De Ponti. Franca, non c'entra la speed in questo caso? No, non c'entra, perché è una cosa che o deve fare il datore di lavoro oppure deve fare l'extracomunitario che va agli uffici. Infatti, preposti. Sarebbe stata la mia prossima domanda: chi deve attivarsi per primo, se il potenziale possibile datore di lavoro oppure direttamente il lavoratore che vuole regolarizzarsi? Però deve avere naturalmente, Franco, immagino, la certezza di avere un datore di lavoro pronto ad assumerlo. Allora, se il datore... No, non è così, nel senso che la sanatoria vera e propria, come ha spiegato Marco Noci, riguarda di fatto gli extracomunitari irregolari, se vogliamo usare il termine. Questi devono andare, la fanno loro, e se sono e praticamente chiedono un permesso di soggiorno che vale per 6 mesi. Il permesso di soggiorno può essere in attesa di lavoro. Quindi non è detto che uno abbia già un datore di lavoro. Marco, correggimi se sbaglio, perché non sono così tanto esperta. E quindi non sempre uno deve avere un datore di lavoro già. Sentiamo Noci allora, dottor Avvocato. Allora, come dicevo prima, sono due i canali per quanto riguarda, parliamo soltanto di cittadini extracomunitari. Sì. Sono due canali. Un canale è di esclusiva competenza del datore di lavoro, o emersione o regolarizzazione. La domanda si fa online diretta allo sportello unico per l'immigrazione, ed è il datore di lavoro che fa la domanda tramite le credenziali dello SPID. E questa è una procedura che viene poi disciplinata, istruita dallo sportello unico per l'immigrazione, uguale alla sanatoria del 2012. L'altro canale è il cittadino straniero che aveva un permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre del 2019, e qui non è chiaro perché questa data, non è spiegata, che se ha prova di aver lavorato prima di tale data, anche qualche anno prima, come bracciante o come domestico, può rivolgersi, può andare all'ufficio postale, riempire un modulo e mandare una domanda alla questura chiedendo un rilascio di un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi. Questa tipologia di permesso è un permesso di soggiorno cartaceo con la dicitura in calce decreto rilancio, e le questure sono già organizzate per dare un canale privilegiato di afflusso dei lavoratori che chiederanno un permesso di soggiorno temporaneo. Questa è la procedura in estrema sintesi delineata dalla presente regolarizzazione. Quello che dispiace e che limita, che riguarda soltanto, non si capisce neanche il perché per questa data, che limita e esclude dalla possibilità di regolarizzare o di regolarizzarsi tanti stranieri che hanno permesso di soggiorno temporaneo o provvisorio, tipo gli studenti, tipo coloro autorizzati a stare in Italia nell'interesse del minore dal tribunale per i minorenni, che magari il permesso di soggiorno gli è scaduto il giorno successivo, il 1 novembre, il 2 novembre e via, che a questo punto sono esclusi da questa sanatoria. Certo, per cui qui si crea un po' questa data spartiacque. Questa data, che non si comprende. Non si comprende, essendo una regolarizzazione, perché escludere tante persone che sono inserite, tipo lo studente, tipo una famiglia che è qui in Italia legata a un permesso biennale del Tribunale dei Minorenni, che a questo punto non potranno accedere alla sanatoria. Diciamo, certo, che questa sanatoria per il primo canale interesserà principalmente i richiedenti asilo, oppure i lavoratori provenienti dal Sud America o dalla Cina, che magari faranno tante domande per essere regolarizzati. Che sono già sul territorio, quindi. Che sono già sul territorio, e questo qui. Con l'altro problema più grosso è, ad esempio, i richiedenti asilo, è un permesso che consente di lavorare, di essere regolarmente assunto, che magari sono occupati in tutt'altre tipologie di lavoro, edilizia e così via, o metalmeccanica, che magari a tempo pieno, e che ad oggi sono esclusi dalla sanatoria. Vediamo vediamo Deborah se nel decreto rilancio, siccome è un decreto legge, magari il Parlamento poi rimedia un po' a queste cose che sono uscite frettolosamente, ecco, per dir così. Prego Deborah. Allora, per essere precisi, noi facciamo una cosa che cerchiamo di spiegare quello che possiamo spiegare con certezza, no? Riprendendo il caso che avevi letto prima, Mauro, cerchiamo di capire come funzionerà, come potrebbe funzionare la regolarizzazione di questa badante della mamma di questo signore che è in Italia dallo scorso anno, ma la cui presenza, appunto, diceva lui, lo leggevi tu prima il messaggio, sul territorio non risulta da alcun documento. Ammettendo che questa signora possa dimostrare di essere appunto in Italia da un po' di tempo, intanto vorrei chiedere o a Franca o all'avvocato Noci quali sono le altre condizioni per poter stabilizzare questo rapporto. Intanto, il tipo di contratto che deve essere stipulato deve essere a tempo determinato o va bene anche a tempo indeterminato? o basta anche quello a tempo determinato? Avvocato Noci. Entrambe le ipotesi sono ammesse, indeterminato o determinato, ma anche il part-time nel lavoro domestico è consentito. Mm-hmm. Quindi questo, allora, quello dice il contratto è questa: il datore di lavoro deve avere un reddito. Il decreto interministeriale ha fissato in 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona come percettore di reddito, oppure 27.000 euro in caso di più presenze nel nucleo familiare. Aspetti, avvocato, mi intrometto per dire, parliamo di reddito imponibile ai fini IRPEF, perché qui in questi casi a volte c'è l'ISEE, eccetera. No, parliamo di reddito imponibile. Quindi reddito imponibile che risulti dalla dichiarazione, penso 2019, esatto. Perché in realtà quella del 2020 ancora dobbiamo presentarla, abbiamo tempo ancora fino a settembre, se non c'è stata ulteriore proroga nel frattempo. Quindi tenga conto che nel lavoro domestico possono essere presi in considerazione anche redditi esenti dalla dichiarazione, tipo l'assegno di validità. Sì, cioè per regolarizzare un lavoratore domestico, quindi. Esatto. Mentre per quanto riguarda il lavoro agricolo si parla di un reddito imponibile di 30.000 euro, quindi la soglia è diversa anche. Scusi, avvocato, l'ho interrotta, stava precisando le cose, io l'ho interrotta solo per questo chiarimento sul reddito. Diceva, ci sono dei limiti, prego, allora, prosegua pure. Allora, sostanzialmente la domanda è composta da generalità del datore, generalità del lavoratore, la tipologia di contratto che si applica, il reddito del datore di lavoro e poi quello che è da valutare è che il lavoratore non abbia pregiudizi penali che gli ostacolino la sanatoria, vuoi condanne per certe tipologie di reato. Certo. Mentre nel caso in cui il lavoratore fosse stato in precedenza espulso per carenza di documentazione in Italia, l'espulsione non è ostativa alla sanatoria. Intanto ci ha raggiunto un altro ospite, Mauro, perché ci sembra utile capire anche la famiglia come impresa, come si comporterà in questo frangente. Andrea Zini, buongiorno e grazie per essere tornato con noi. È vicepresidente di Assin.Colf, l'associazione appunto dei datori di lavoro domestico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli interventori e ascoltatori. Allora, dottor Zini, le chiedo un attimo di pazienza perché dobbiamo andare a dare le informazioni sulla viabilità. E, tra l'altro, però, l'occasione mi è propizia la sua presentazione per ricordare che il 10 di giugno c'è il termine che è stato prorogato dal 10 aprile per versare i contributi del primo trimestre della Colf, quindi primo trimestre 2020, poiché è stata una delle prime proroghe disposte tra i primissimi decreti legge, magari potrebbe sfuggire. E poi ci sono anche adesso c'è questa provvidenza, questo supporto, questa indennità di 1.000 euro complessivi per i lavoratori domestici, ma qui parliamo di contratti regolari che fossero in corso già al 23 di febbraio, quindi non c'entra nulla con la sanatoria, la regolarizzazione di cui stiamo parlando e di cui torneremo a parlare tra poco dopo il traffico. Due di denari. Allora, cara Deborah, a me piace molto questo binomio che ha creato Franca De Ponti del Sole 24 Ore, Colf e Braccianti, perché mi sembra che riassuma con sintesi felice questa emersione, regolarizzazione, non saprei neanche, ma Franca, qual è il termine giusto per chiamare questa operazione? Guarda, il termine giusto non c'è, diciamo che sanatoria secondo me, anche se poi magari non piace a seconda, come non è piaciuto in questi ultimi 20 anni ai vari governi succedutisi, però di fatto è una sanatoria. Chiamiamola regolarizzazione, vabbè, no. Per essere politicamente corretti. Sì, però questo è, cioè. Sì, ho capito, è un po', diciamo che sanatoria è il svenu condono fiscale, non si può più dire, ecco. Insomma. No, perché sappiamo che, diciamo, specialmente per quanto riguarda gli extracomunitari, le sensibilità sono molto accese, ecco. Allora, tu hai introdotto Deborah e il dottor Zini. Sì, esatto. Prego. Chiedi pure. Sì, volevamo sapere, dottore, come vi state comportando come Assindat Colf nella gestione di questa pratica regolarizzazione appunto dei collaboratori familiari che già sono sul territorio e che adesso possono approfittare di questa opzione aperta dal decreto rilancio. Intanto, che tipo di informazioni vi state chiedendo? Avete delle situazioni complicate da gestire? Ci racconta un po' negli sportelli di Assindat Colf cosa sta succedendo? Ma guardi, diciamo che al momento c'è molto interesse a cercare di capire se il proprio caso è sanabile o non è sanabile, e quindi alla tipologia, più che alle impedimenti che giustamente l'avvocato sottolineava prima, che a quelli verranno ovviamente controllati dagli schedari, dai casellari della pubblica autorità. Il problema è come certificare, come avallare la propria presenza prima dell'8 marzo e continuativa dall'8 marzo a venire ad oggi, perché per definizione una persona che non è in regola tende a fuggire qualsiasi controllo, per cui in questo momento l'attenzione è specifica su questo punto. Poi ovviamente molto spesso il problema è che l'iniziativa parte dal lavoratore, che si deve cercare un datore di lavoro. Un datore di lavoro può non essere esistente, nel senso che la norma mette la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, non solamente la regolarizzazione di un rapporto di lavoro già esistente, e di conseguenza ci sono anche altri ostacoli pratici da affrontare. Quelli burocratici credo che ormai siano abbastanza chiari: l'F24 per il pagamento dei 500 euro, esatto, questo aspetto non l'abbiamo ricordato, che c'è anche l'erogazione di questo contributo da parte dell'ente, l'impresa, la famiglia che assume, appunto, deve famiglie versare. Che non vogliamo creare degli alibi al governo nel non sostenerci, perché se mi permette una battuta, io credo che sarà un flop la regolarizzazione di rapporti di lavoro di cittadini italiani o comunitari o extracomunitari regolari in Italia, perché il comma 1 dell'articolo 85 ha due facce, una di sanatoria vera e propria, anche se così non si può chiamare perché non è politicamente corretto, ma riguarda, diciamo, i cittadini italiani e non che sono regolarmente in Italia. Questi potrebbero sanare, non c'è motivo per sanare, perché se non c'è la deducibilità del costo del lavoro per la famiglia, il lavoro nero costerà sempre meno che il lavoro in chiaro, e quindi la famiglia, per magari risparmiare i contributi senza tener conto di quelli che sono i rischi, come diciamo sempre, ha già fatto una scelta, come ha già fatto una scelta il lavoratore, quei 250.000 lavoratori che erano qui nel 2012 e che piano piano sono spariti, ma probabilmente qualcuno ha altro lavoro, qualcuno è andato fuori dall'Italia, qualcuno lavora in nero. Non c'è motivo per chi lavora in nero di regolarizzarsi. Diciamo, non c'è incentivo, ecco, per dir così. Esatto. Perché c'è un costo. Sì, fatta la scelta, non c'è un cambiamento rispetto ai presupposti di quella scelta che è stata fatta. Perché c'è un costo di 500 euro, dico bene? Il costo di 500 euro esiste, e non è tanto quello lo spauracchio. È che quando regolarizzi un rapporto, da qui in avanti dovrai comunque dichiararlo e pagare i contributi, il lavoratore dovrà pagare le tasse, quindi se non si crea la contrapposizione di interessi tra la famiglia e il lavoratore, per cui la famiglia convenga dichiarare un rapporto di lavoro per spendere meno che non in nero, è evidente che questa seconda parte del comma 1 non verrà mai, non sarà un flop. Viceversa, abbiamo delle ottime aspettative sulla prima parte, quella della regolarizzazione dei lavoratori irregolari sul territorio italiano, che per definizione senza un permesso di soggiorno non possono essere assunti. Su quello c'è il movimento, su quello credo che oggi sia, e fino al 15 luglio sia, l'attenzione maggiore. Poi anche questi finiranno in una routine che probabilmente, finito un rapporto di lavoro, ottenuto il permesso di soggiorno, porrà una scelta sulle le famiglie considerata quella di andare al nero, cosa che è deprecabile, per cui stiamo insistendo, come abbiamo chiesto nel decreto rilancio, non c'è stato dato la deducibilità del costo del lavoro, speriamo nella legge di bilancio che questo avvenga. Deborah, però, io prego, dottor, prego. Dicevo, per quanto riguarda invece l'evasione, veramente pregherei tutti i datori di lavoro e i lavoratori di fare mente locale, quelli che possono essere documenti di una pubblica autorità, anche se privata, incaricata di un ruolo pubblico, per documentare, non basta una testimonianza, quindi non so se si è stati alla propria ambasciata per una qualche documentazione, se c'è una registrazione di un accesso all'ambasciata, se c'è una tessera con fotografia e dati identificativi per l'abbonamento all'autobus Dottor Zini, l'ascoltatore che ci ha scritto prima insiste. Io vi preciso, la mia badante è extracomunitaria, non ha alcun tipo di documento che possa attestare la sua presenza in Italia se non una mia dichiarazione. Questa persona è arrivata in Italia, ammettendo che lo abbia fatto con un volo aereo, fino a quando era possibile ancora volare. Per esempio, un titolo di viaggio può essere sufficiente? Un titolo di viaggio sì, ma poi chi arriva da un paese per il quale è necessario un visto alla frontiera in aeroporto è sicuramente stato posto un timbro sul passaporto. E quindi anche il titolo di viaggio con probabilmente l'arrivo in Italia certificato ampiamente. A nuoto non saranno arrivate queste persone. I problemi più grossi riguardano i cittadini che arrivano extracomunitari, che arrivano dall'est, extra Europa, che magari fanno una frontiera terrestre in Polonia, in Germania, nella Slovenia, quelli che sono nel Croazia, quelle che sono le varie nazioni che distaccano il loro paese dal territorio italiano. Entrati nell'ambito Schengen non hanno più motivo di dover ottenere un visto alla dogana italiana, e da quello che abbiamo capito un visto sul passaporto di arrivo in Polonia o in Germania non sana il problema della documentazione della presenza in Italia. Quindi fare mente locale, guardate che molto probabilmente può anche essere stato un accesso a un pronto soccorso, può essere stato un ottenimento del codice fiscale che è indipendente dallo status di regolarità o meno, certo. L'iscrizione del figlio alla scuola, che presuppone una firma di un genitore, cioè, si faccia mente locale a quelle che sono le tracce giuridiche, diciamo, della presenza giuridicamente valide della presenza in Italia. Certo, e questo immagino già che farà sorgere tutta una serie di quesiti. Io vorrei richiamare in causa, Deborah, l'avvocato Noci, perché c'è un altro caso di quelli che ci vengono sottoposti, ma se ho capito bene questo è un caso risolvibile con le normative attuali, perché l'ascoltatore si chiama Alessandro, ci scrive: sto cercando di assumere una colf convivente per la famiglia, c'è una persona che andrebbe bene ma è senza permesso di soggiorno, quindi non possiamo assumerla in regola. In realtà, se ho capito bene tutto quello che l'avvocato Noci ci ha spiegato, questa situazione sarebbe sanabile. Lui dice: funziona solo se una persona ha attualmente un lavoro in nero, ma non necessariamente, mi pare di capire, cioè la persona stessa potrebbe farsi avanti per chiedere questo permesso temporaneo e poi da lì attivare il rapporto di lavoro. O non ho capito niente, avvocato Noci, mi corregga, così aiutiamo tutti. Vorrei aggiungere quello che diceva il dottor Zini prima, richiamando, memo della sanatoria del 2012, un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 4 ottobre 2012, che, sullo stesso tema della prova, fondamentalmente l'Avvocatura diceva che la prova possono essere anche tessere nominative di mezzi pubblici e titolarità di schede telefoniche di operatori italiani, e credo che quasi tutti gli stranieri hanno acquistato schede telefoniche una volta giunti in Italia. Sì. Quindi già questo qui potrebbe essere una prova ritenuta valida, memoria di questo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Per quanto riguarda la possibilità del datore di lavoro di assumere uno straniero senza permesso, chiaramente può accedere alla procedura della regolarizzazione della sanatoria, che scadrà il 15 luglio. Mentre per quanto riguarda il caso dello straniero che chiede un permesso di soggiorno di temporaneo di 6 mesi, questa possibilità è riconosciuta se lo straniero aveva un permesso di soggiorno scaduto il 31 ottobre del 2019 e non rinnovato né convertito, primo aspetto. Secondo aspetto è se è in grado di dimostrare che prima di tale data ha lavorato nei settori dell'agricoltura o come domestico e ha documentazione certa, cedolino, assegno al datore di lavoro, corrispondenza anche informatica fra datore e lavoratore, che può dimostrare la sussistenza di tale di un rapporto di lavoro. Grazie. Deborah, sì, abbiamo esaurito il tempo, sì, a nostra disposizione. Esatto. Io invito Franca De Ponti a fare un altro paio di pagine con tutto questo vademecum, a mettere ordine su tutte le cose che ci sono state dette stamattina. Sarà un lavoro molto utile e molto apprezzato. E noi saremo qui a segnalarlo. Grazie a Franca De Ponti, grazie a Marco Noci, Andrea Zini. Noi torniamo domani, cara Deborah. A domani, buona